Quale proposta fece Bloom di ambulo, padre di Millie, sonnambula, a Steven, nottambula? Di trascorrere in riposo le ore intercorrenti tra giovedì convenzionale e venerdì effettivo su un giaciglio estemporaneo nell'appartamento immediatamente sopra la cucina, immediatamente adiacente al luogo di riposo del padrone e della padrona di casa. Quali svariati vantaggi sarebbero derivati, o avrebbero potuto, da un prolungamento di questa estemporizzazione? Per l'ospite, sicurezza di domicilio e ritiro per lo studio. Per il padrone di casa, ringiovanimento dell'intelligenza, soddisfazione in via surrogata. Per la padrona di casa, disintegrazione dell'ossessione, acquisizione di una corretta pronuncia italiana. Perché queste varie contingenze provvisorie tra un ospite e la padrona di casa non avrebbero necessariamente impedito o potuto essere impedite dall'eventualità permanente di un'unione riconciliativa tra uno studente e la figlia di un ebreo? Perché la via che portava alla figlia passava dalla madre, la via che portava alla madre dalla figlia. A quale inconseguente polisillabica domanda dell'ospitante diede l'ospitato risposta negativa monosillabica? Se egli avesse conosciuto la defunta signora Emily Sennicow, accidentalmente perita alla stazione Sydney Parade il 14 ottobre 1903. Quale incipiente affermazione di corollario fu quindi soppressa dall'ospite? Un'affermazione che spiegava la sua assenza in occasione dell'inumazione di Mrs. Mary Dedalus, nata Golding, il 26 giugno 1903, vigilia dell'anniversario del decesso di Rudolph Bloom, nato Virag. Fu accettata la proposta di asilo, prontamente, inesplicabilmente, con amabilità, gratamente, fu declinata. Quale scambio di denaro ebbe luogo tra il padrone di casa e l'ospite? Il primo restituì al secondo, senza interesse, una somma di denaro, una sterlina 7 scellini 0 pence, una lira sterlina e 7 scellini, anticipata dal secondo al primo. Quali controproposte furono alternativamente avanzate, accettate, declinate, riformulate in altri termini, riaccettate, ratificate, riconfermate? Inaugurare un preorganizzato corso di italiano nel luogo di residenza della discente. Inaugurare un corso di canto nel luogo di residenza della docente. Inaugurare una serie di dialoghi intellettuali statici, semistatici e peripatetici nel luogo di residenza di ambo gli interlocutori, qualora ambo gli interlocutori risiedessero nello stesso luogo, all'albergo e taverna Ship, 6 Lower Abbey Street, proprietari W. E. E. Connery, alla Biblioteca Nazionale Irlandese, 10 Kildare Street, all'Ospedale Nazionale della Maternità, 29, 30 e 31 Holles Street, in un giardino pubblico, nelle vicinanze di un luogo di culto, alla confluenza di due o più strade pubbliche, nel punto di bisezione di una linea retta tracciata tra le loro residenze, qualora ambo gli interlocutori risiedessero in luoghi diversi. Che cosa rendeva problematica per Bloom la realizzazione di queste proposte escludentisi a vicenda? L'irreparabilità del passato. Una volta a una rappresentazione del circo Albert Engler alla Rotonda, Rutland Square, Dublino, un pagliaccio intuitivo e multicolore in cerca di paternità era penetrato dalla pista fino al posto dove Bloom, solitario, stava seduto tra il pubblico e aveva dichiarato pubblicamente agli spettatori esilarati che egli, Bloom, era il suo, di lui, papà. L'imprevedibilità del futuro. Una volta, nell'estate del 1898, egli, Bloom, aveva contrassegnato un fiorino, 2 scellini, con 3 tacche nel contorno zigrinato, e l'aveva offerto in pagamento di un conto dovuto a e ricevuto da J. E. T. Davy, drogheria con servizio a domicilio, 1 Charlemont Mall, Canal Grande, perché circolasse sulle acque della pubblica finanza, nell'eventualità di un possibile ritorno, indiretto o diretto. Era il pagliaccio figlio di Bloom? No. Era tornata la moneta di Bloom? Mai. Perché una nuova delusione lo avrebbe ancor più depresso? Perché alla svolta critica dell'esistenza umana desiderava migliorare molte condizioni sociali, prodotto dell'ineguaglianza, dell'avidità e dell'animosità internazionale. Credeva dunque che la vita umana fosse infinitamente perfettibile eliminando queste condizioni? Rimanevano le condizioni generali imposte dalla legge di natura, distinta da quella umana, in quanto parti integrative dell'umana totalità. La necessità della distruzione per procurarsi il sostentamento alimentare, il carattere doloroso delle funzioni estreme dell'esistenza individuale, i dolori della nascita e della morte. La monotona mestruazione delle femmine della scimmia e specialmente di quelle dell'uomo, estendentesi dall'età della pubertà fino alla menopausa. Incidenti inevitabili in mare, nelle miniere, nelle fabbriche, certe dolorosissime malattie e le conseguenti operazioni chirurgiche, pazzia innata e criminalità congenita, epidemie decimanti. Cataclismi catastrofici che fondano sul terrore la mentalità umana, manifestazioni sismiche, l'epicentro delle quali è sito in regioni a popolazione densa. La realtà dello sviluppo vitale attraverso i rivolgimenti del metabolismo, dall'infanzia attraverso la maturità fino alla decadenza fisica. Perché desistette da queste speculazioni? Perché era compito di un'intelligenza superiore sostituire altri fenomeni più accettabili in luogo dei fenomeni meno accettabili che si sarebbero dovuti sopprimere. Partecipò Steven al suo scoraggiamento? Affermò la sua importanza di animale razionale e cosciente che procedeva per sillogismo dal noto all'ignoto e di reagente razionale e cosciente tra un micro e un macrocosmo ineluttabilmente costruiti sull'incertezza del vuoto. Fu questa affermazione compresa da Bloom, non verbalmente, sostanzialmente. Che cosa confortò la sua incomprensione? Il fatto che come cittadino qualificato, ma senza chiave, aveva proceduto energicamente dall'ignoto al noto attraverso l'incertezza del vuoto. In quale ordine di precedenza, con quale cerimonia d'accompagnamento fu effettuato l'esodo dalla casa della schiavitù al deserto dell'abitazione? Candela accesa nel candeliere, portata da Bloom. Cappello da diacono sul bastone di frassino, portato da Steven. Con quale intonazione secreto di quale salmo commemorativo? Il 113esimo, Modus peregrinus, in exitu Israel de Egipto, Domus Jacob de populo barbaro. Che fece ognuno dei due alla porta di egresso? Bloom posò il candeliere sul pavimento. Steven si mise il cappello in testa. Per quale creatura la porta di egresso fu una porta d'ingresso? Per una gatta. Quale spettacolo si presentò loro quando essi, dapprima il padrone di casa, poi l'ospite, emersero in silenzio, doppiamente oscuri, dall'oscurità attraverso un passaggio sul retro della casa, nella penombra del giardino? L'albero celeste delle stelle carico di umidi frutti nottazzurri. Con quali meditazioni accompagnò Bloom l'indicazione che al suo compagno fece delle varie costellazioni? Meditazioni sull'evoluzione sempre più vasta, sulla luna invisibile in lunazione incipiente vicina al perigeo, sulla infinita lattiginosa scintillante incondensata Via Lattea, percepibile in pieno giorno da un osservatore situato all'estremità inferiore di una cavità cilindrica verticale affondata per 5.000 piedi dalla superficie al centro della Terra. Su Sirio, Alfa del Gran Cane, distante 10 anni luce, 57.000 miliardi di miglia, e 900 volte le dimensioni del nostro pianeta, quanto al volume. Su Arturo, sulla precessione degli equinozi. Su Orione con la cintura e il sole sestuplo Teta e la nebulosa in cui capirebbero 100 dei nostri sistemi solari. Su stelle moribonde e nascenti, come Nova nel 1901. sul precipitarsi del nostro sistema verso la costellazione di Ercole, sulla parallasse o deviazione parallattica delle cosiddette stelle fisse, in realtà sempre moventisi erranti da eoni smisuratamente remoti a futuri smisuratamente remoti, al cui confronto gli anni 60 e 10 destinati all'umana esistenza formavano una parentesi di brevità infinitesimale. Vi furono meditazioni contrarie sull'involuzione sempre meno vasta, sugli eoni dei periodi geologici registrati nelle stratificazioni della Terra, sulle mille e mille minute esistenze organiche entomologiche nascoste nella cavità della Terra, sotto pietre amovibili, in alveari e monticelli, di microbi, germi, batteri, bacilli, spermatozoi, sugli incalcolabili trilioni di miliardi di molecole impercettibili contenute per la coesione dell'affinità molecolare in una singola testa di spillo, sull'universo del siero umano costellato di corpuscoli bianchi e rossi, essi stessi universi di spazio vuoto, costellati di altri corpuscoli, essendo ciascuno in continuità un universo composto di corpuscoli divisibili, di cui ciascuno suddivisibile in divisioni di corpuscoli componenti ridivisibili, dividendi e divisori sempre diminuenti senza reale divisione, fino a che, se il processo fosse spinto abbastanza avanti, si arriverebbe a niente. In nessun posto, mai. Perché non aveva egli elaborato questi calcoli per raggiungere un risultato più preciso? Perché alcuni anni prima, nel 1886, quando si occupava del problema della quadratura del circolo, aveva appreso l'esistenza di un numero calcolato con una relativa approssimazione come di tale ampiezza e di tante cifre, e cioè, per esempio, la nona potenza della nona potenza di 9, e tale che, se si fosse ottenuto il risultato, 33 fitti volumi di 1.000 pagine ciascuno di innumerevoli sedicesimi e risme di carta india avrebbero dovuto essere requisiti per contenere il numero completo dei suoi numeri interi, unità, decine, centinaia, migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni, decine di milioni, centinaia di milioni, miliardi. Il nucleo della nebulosa di ogni cifra semplice di ogni serie, contenendo succintamente la potenzialità d'essere elevata alla massima elaborazione cinetica di qualsiasi potenza ad una qualsiasi delle sue potenze. Trovava egli il problema dell'abitabilità dei pianeti e dei loro satelliti da parte di una razza comportante una suddivisione in specie e della possibile redenzione sociale e morale della detta razza da parte di un redentore di più agevole soluzione, di un altro ordine di difficoltà. Cosciente che l'organismo umano, normalmente capace di sostenere una pressione atmosferica di 19 tonnellate, se innalzato a un'altezza considerevole nell'atmosfera terrestre, soffre con una progressione aritmetica di intensità a seconda dell'approssimarsi alla linea di demarcazione tra troposfera e stratosfera, di emorragia nasale, di difficoltà respiratorie e di vertigini, nel proporsi la soluzione di questo problema, egli aveva congetturato come ipotesi sperimentale che non potesse essere dimostrata l'impossibilità che una razza di esseri più adattabile e diversamente costituita dal punto di vista anatomico potesse altrimenti sussistere in condizioni sufficienti ed equivalenti su Marte, Mercurio, Venere, Giove, Saturno, Nettuno o Urano, benché un'umanità giunta a un apogeo di esseri creati in svariate forme, con differenze finite risultanti in una similarità nell'insieme e dell'uno rispetto all'altro, rimarrebbe probabilmente qua come là, inalterabilmente e inalienabilmente attaccata alle vanità delle vanità e a tutto ciò che è vanità.